A Cina con il filosofo Bruno Cerminiani, un amico egolo freudiano che mi riserva volentieri l'antitesi e il subconscio, li riserva a me dopo essersi tenuto per sé e la tesi e la sintesi, per non parlare del conscio. A cena ordiniamo pasta e ceci. Quando arriva alla prima cucchiaiata faccio l'errore di chiedergli cosa ne pensi, e lui, l'errore, tenta di farmelo pagare, pronta a cassa, dice: questa non è la vera pasta e ceci. E mi basta il tono, ecco, non ci fosse stato anche lo sguardo furbastro, mi basta il tono per capire che qui è in gioco parecchio. Parecchio di più di quanto non sia in gioco allorché uno dà un parere su una pasta e ceci. Questa è una sfida ma non tanto niente affatto gastronomica, perché qui non si tratta solo e soltanto del pomodoro in cui guazzano bucatini e ceci e della correlativa, ahimè, assenza totale del rosmarino. No, non si tratta tanto di questo. Non si tratta di una sfida gastronomica, quanto piuttosto di una sfida epistemologica. Cosa pensi d'altro il Cerminiani lo sa Dio, ma di una cosa che pensa il Cerminiani io un'idea ce l'ha con me, semplicemente. Ritiene che io, da costruttivista convinto, da nemico della filosofia, nemico di quella filosofia che usa del valore di verità come del risultato di un impossibile confronto tra l'esemplare posto in un mondo esterno e la sua copia posta in un mondo interno, due mondi che vengono così investiti di due rispettive caratterizzazioni, ahimè, metaforiche, un interno e un esterno, ritiene che io, da nemico di questa filosofia, non possa permettermi di dire, come fa lui, che questa non è la vera pasta e ceci. Ritiene che io debba, per le mie convinzioni, rinunciare al libero uso di certe parole. Realtà e verità, esistenza e conoscenza, per merito di un tabù consapevolmente o inconsapevolmente accettato, mi sarebbero proibite in qualsiasi contesto. Così, secondo questa tesi, uno come me, che rifiuta di considerare il mondo come belle fatto e indipendente da me che lo percepisco, non potrebbe mai dire, se non autocontraddicendosi, frasi come «in realtà il tram numero 15 non passa da qui», oppure «Van Basten è un vero centravanti, quello sì», oppure «se ci sei, nel senso di se esisti, batti un colpo». Non potrei proprio dirle mai. Io penso invece esattamente il contrario. Penso che problemi con le parole ce l'abbiano soltanto i filosofi, cioè coloro che di ogni parola si sentono in dovere di andare a cercare un corrispettivo nel mondo, con il risultato che quando questo corrispettivo non lo trovano, rimangono alle prese con una parola che non sanno bene né come né dove sistemare. L'esempio dei neopositivisti valga per tutti. Prendiamo il caso della pasta ai ceci. Se io dico che questa non è la vera pasta ai ceci, voglio dire che io della pasta ai ceci fatta così e così ne ho fatto un paradigma, cui ho confrontato questa, che invece di essere fatta così e così è fatta così e cosà, ottenendone dunque dal confronto una differenza, una diseguaglianza. Se nel paradigma ci ho messo il rosmarino, non posso poi nel confronto tirarmi fuori solamente lo sguazzamento di pomodoro. Non c'è un empireo dove il gastronomo divino ha depositato la vera pasta ai ceci che ci capita di incontrare nella nostra vita. Non c'è un modello consacrato e sovrastorico di pasta ai ceci cui adeguarci. Il paradigma ce lo facciamo noi, come la pasta ai ceci peraltro. Siamo liberi di utilizzare quello dell'Artusi o quello della nonna. Siamo liberi anche di tentare di imporlo tale quale ai commensali, ma il suo valore di verità dipende da un confronto perfettamente legittimo, perché i suoi termini sono chiaramente esplicitabili e, come tali, prodotto tutto nostro. Tanto è vero, Tant'è vero che la vera pasta ai ceci cambia di regione in regione, di epoca in epoca, fornendo materia di dotte discussioni a coloro che si affidano a paradigmi diversi. Quando il filosofo parla di verità o di realtà di qualcosa, intende dire che dalle parole è riuscito a passare ai cosiddetti fatti, che ha compiuto una verifica in grazia della quale ha saputo che le cose nel mondo stanno così e non cosà. Ed è proprio ciò che io contesto possa dire, perché mai potrà confrontarsi l'esemplare di pasta ai ceci sul tavolo con la copia che me ne sarei fabbricato in testa mentre la guardo prima e l'assaggio poi. Mai potrà neppure affermare che si tratti effettivamente di una copia, come mai potrà disquisire sulla sua somiglianza o meno rispetto all'originale. Chi si pone questi problemi non vien più a casa, perché li ha impostati già in modo autocontraddittorio. Per questo e per tutto ciò che da questo consegue, non amo i realisti. Sapendolo o meno, difendono una concezione passivista della conoscenza, nonché, al seguito, tutti gli stratagemmi storici che, servendosene, hanno giustificato il potere di qualcuno su qualcun altro. Io ovviamente non so né posso pretendere di sapere se quella semplice asserzione del mio amico Cermignani appartenesse al campionario filosofico o no. No, non posso sapere se il paradigma a cui si rifaceva è quello della vera pasta ai ceci era per lui esplicito, integralmente frutto di operazioni da lui controllabili e ripetibili, o non fosse piuttosto una categoria generale dello spirito o un'idea immutabile dell'iperuranio platonico. Questo non lo posso sapere. Ma prima che il discorso prosegua e il contesto litigioso successivo me lo chiariscano, un criterio per dirimere la questione io ce l'avrei. Si potrebbe, infatti, essere tentati di dire che se la frase «questa non è la vera pasta ai ceci» la dice lui, è sicuramente quanto di più epistemologicamente retrivo ci possa capitare. Mentre se la stessa frase la dico io, ancorché banalotta e perditempo, è sicuramente una frase legittima quanto epistemologicamente inoppugnabile. Se non altro, tuttavia, se la dicessi io, costituirebbe per me l'unico modo per accertarmi della sua legittimità.